Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La colonna infame di Alessandro Manzoni, regia e drammaturgia di Luca Radaelli, collaborazione alla regia di Antonio Pizzicato, con Luigi Maniglia, Luca Radaelli, Valerio Maffioletti, suoni di Luigi Maniglia, consulenza musicale di Angelo Rusconi. La colonna infame di Alessandro Manzoni, regia e drammaturgia di Luca Radaelli, collaborazione alla regia di Antonio Pizzicato, con Luigi Maniglia, Luca Radaelli, Valerio Maffioletti, suoni di Luigi Maniglia, consulenza musicale di Angelo Rusconi. Le 4:30. Una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi per disgrazia alla cavalcavia di una finestra che allora c'era al principio di via della Vetra dei Cittadini, dalla parte che mette al corso di Porta Ticinese, quasi di rimpetto alle colonne di San Lorenzo, vide venire un uomo. Cappa nera e il cappello sugli occhi. Gheva il cappello sugli occhi. E una carta in mano sopra la quale pareva che scriveva. Mi diede nell'occhio che entrando nella strada si fece appresso alle muraglie delle case che subito dopo voltato il cantone. Sì, proprio dopo voltà il cantone. E luogo a luogo tirava con le mani dietro al muro. E allora mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno di quelli che nei giorni addietro andava ungendo le muraglie. L'uomo di cui si parlava era Guglielmo Piazza, commissario di sanità. Un commissario di sanità era un funzionario del comune di Milano mandato in giro a controllare la diffusione del contagio. Doveva prendere appunti e così facendo poteva capitare di sporcarsi la mano con l'inchiostro e di doversela pulire contro il muro. Ma anche un gesto così poteva essere quello di un untore della peste. Mm. Ah, signor sì, era per pulirsi le mani macchiate d'inchiostro, perché è vero, stavo scrivendo. E in quanto all'andare rasente al muro, beh, non so se c'è bisogno di un perché. Era perché pioveva. È sicuro che pioveva. È certo che pioveva. Bisogna che avesse preso quel tempo piovoso apposta, perché più gente possa imbrattarsi i panni nell'andare in volta, andare al coperto. È che ho visto colui fare certi atti che non mi piacciono minga. Usciti dalle porte, si vide poi le mura imbrattate di un certo untume che par grasso e che tira il giallo fin dentro l'andito di quelli del tradate. Adorabile donnetta questa Caterina Rosa. Il governatore aveva promesso 200 scudi a chiunque denunciasse gli untori. Questo spiega tanta solerzia. E poi tutto il mondo è paese, e nei paesi si sa, le finestre hanno gli occhi. Dunque, Caterina Rosa aveva seguito passo passo tutto il giro che il Piazza aveva fatto. Però né lei né nessun altro avrebbe potuto dire che fosse entrato proprio in quell'andito. E non parve nemmeno strano che per fare un lavoro simile avesse voluto aspettare che fosse levato il sole, quando tutti appunto potevano vederlo. Che non desse almeno un'occhiata alle finestre a scanso di testimoni, né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, né soprattutto che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccidere quanti se ne imbrattassero i panni. Ma ancor più strano e atroce è che non paressero strani nemmeno l'inquisitore, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. È stato significato al Senato che ieri mattina furono unte con unzioni mortifere le mura e porte della vetra dei cittadini. Si dà ordine di arrestare il Piazza. E ci volle poco, perché la mattina del 22 lo stesso Guglielmo Piazza, commissario di sanità, è lì, davanti alla porta di casa del suo presidente, ad aspettare. Lo portano in prigione. La sicurezza dello sventurato, che non aveva pensato minimamente né a fuggire né a nascondersi, non viene eletta a indizio di innocenza. Fu subito visitata la casa del Piazza per vedere se c'erano vasi d'unzione. Non si trovò nulla. Neanche questo gli giovò. Professione. Professione. Quali sono le sue operazioni abituali? Ieri. Che giro ha fatto? Che vestito aveva? Sa? E sono stati trovati imbrattati alcuni muri della vetra dei cittadini, particolarmente in Porta Ticinese. Mi non lo so, perché non mi fermo niente in Porta Ticinese. Questo? Non è verosimile. Lo doveva sapere. Cosa avete fatto poi? Mi sono trovato coi deputati di una parrocchia. Chi erano? Costoro? Li conosco di vista, non di nome. Questo? Non è verosimile! Perché ritorna questa parola verosimile? Perché la legge di Milano prevedeva che i giudici non devono cominciare prima della tortura, ma servirsi prima di argomenti verosimili e probabili. E se condotti da questi, quasi dai indizi sicuri, credono di dover venire ai tormenti per riscoprire la verità, lo facciano, quando la condizione della persona lo permette. Era peraltro insegnamento comune che la bugia dell'accusato nel rispondere al giudice fosse uno degli indizi che legittimavano la tortura. Il tribunale decretò che il Piazza fosse raso, rivestito con gli abiti della curia e purgato. Credevano infatti che nei peli o capelli, ovvero nell'intestino, potesse avere un amuleto o patto col demonio. Del resto tutta questa faccenda era considerata demoniaca, non potendola spiegare in altro modo. Era passato quasi un anno dall'inizio dell'epidemia. I morti a quest'epoca a Milano erano quasi 300 al giorno e andavano sempre crescendo. E l'unica deliberazione della giunta era stata quella di indire una processione con le reliquie di San Carlo, cioè far pigiare la folla. Far pigiare la folla. Creare occasioni di contatto fra malati e sani. Fra malati e sani. Il modo migliore per diffondere il contagio. Ancora di più. Ancora di più. Ancora, ancora di più. Più. Ancora di ancora più. Di più. Ancora, ancora di più. Ancora di più. Mira il tuo popolo, oh bella signora, che è pieno di giubilo, oggi ti onora, che è pieno di giubilo, oggi ti onora. Mira il tuo sapere che siano stati unti i muri e di sapere che siano stati i nomi dei deputati che altrimenti si metterà alla corda per avere la verità di queste inverosimilitudini. Mira il tuo popolo, bella signora. Me la vogliono fare anche attaccare al collo, lo facciano, che di queste cose che mi hanno interrogato io non ne so niente. Che è pieno di giubilo, oggi ti onora. Ecco la specie di coraggio disperato con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che a qualunque segno arrivi non arriverà mai a diventar ragione. Ma la verità è che i giudici non cercavano la verità, cercavano una confessione. Avevano fretta. Tutta Milano sapeva che Guglielmo Piazza aveva unto i muri e loro che l'avevano nelle mani non l'avrebbero fatto confessar subito a lui. Quanto è cieco il furore. Non veniva loro in mente che quello che potevano strappargli a forza dalla bocca poteva addurlo lui come argomento fortissimo dalla sua innocenza. Sì, signore, avrebbe potuto rispondere. Avevo sentito dire che si erano trovate unta le mura in via della Vetra e stavo lì davanti alla porta di casa vostra a balloccarmi, signor presidente della sanità. E l'argomento sarebbe stato tanto più valido in quanto, essendosi sparsa la voce del fatto e la voce che il Piazza ne fosse l'autore, questi avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere il suo pericolo. Ma questa osservazione così ovvia non poteva venire in mente all'infelice, perché non gli era stato detto di cosa fosse accusato. Che si risolva di dire la verità. La verità L'ho detta. Mi facci dare un po' d'acqua. Io non so niente, Vossignoria. Mi facci dare un poco d'acqua. Il Piazza era stato sottoposto alla tortura. Legatura del canapo. Atrocissima tortura con cui, con una corda, veniva sollevato il corpo dell'imputato, mediante la quale slogavano oltre le braccia anche le mani. Eppure nessun nuovo indizio era emerso. Semplicemente una donna aveva visto il Piazza toccare il muro con le dita. E poi avevano visto una materia viscosa unta sopra quei muri, e soprattutto in un andito dove il Piazza non era entrato. Ma il Senato di Milano era tribunale supremo in questo mondo, si intende. E il Senato di Milano, da cui il popolo si attendeva la sua vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men perseverante, men fortunato scopritore di Caterina Rosa. Che tutto si faceva con l'autorità di costei. Allora mi viene un pensiero, se a caso fosse un poco uno di quelli. Se non che lei aveva cominciato con il dubbio, i giudici con la certezza. Signor fiscale, che assassinamento è questo? Vi prego, fatemi tagliar via la mano, ammazzatemi, appiccatemi, mi lasci riposare almeno un poco. Oh, per l'amor di Dio, mi faccio dar da bere. Io la verità l'ho detta. Io non so niente. La verità. Si dovette finire a ricondurlo di nuovo in carcere. Miserere mei. Secundum magna misericordia tua, e secundum multitudine miserazione tua, dere iniquitate mea. Secundum magna misericordia tua. Erano dunque da capo, come non avessero fatto ancor nulla. Decisero allora di sottoporlo a una tortura d'altro genere. D'ordine del Senato, l'auditore fiscale promise al Piazza l'impunità, a patto che dicesse interamente la verità. Così erano riusciti a parlargli dell'imputazione, non per cavare dalle sue risposte i lumi necessari all'investigazione della verità, non per sapere cosa ne dicesse lui, ma per dargli uno stimolo potente a dire quello che volevano loro. Miserere mei Deus, secundum magna misericordia tua, e secundum solitudine e miserazione tuarum, delle iniquitate mea, miserere me. Secundum magna misericordia tua. Ma che dolore. A questo punto bisogna fare uno sforzo di immaginazione, mettersi nei panni del Piazza. Che dolore. Ma cosa mai fatte, ma le robe dei cristiani questa? In una cella buia, fetida, visitata dai topi. Rasato, purgato, vestito di un saio. Polsi e spalle slogati e doloranti. Niente a lenire il dolore, niente, anzi, la promessa di aumentarlo di smisura. La prospettiva di morire sotto i tormenti. Ma ora si apre uno spiraglio. Mettere un altro al tuo posto. Tu ci ho i brasi spalle, mi la perdi lassù, hai la vagno, son chi sarà su, l'antro hai pighesche andare, in stara terra piena di frecce, che dolore. Il nome del mandante, anche tu sei grande. Chi ha organizzato il cos? Non mi su niente. Io fai una cosa, io combinando una cosa. E se che fai il nome di quei film? I nomi, solamente i nomi. E basta che alfanese sto tormento. Ma più di no, condannam puer Cristo. E posso più di no. È stato il barbiere, l'estate, sì, il barbiere, Gian Giacomo Morra, l'estate lui che l'ha combinato in cos. Il barbiere Gian Giacomo Morra componeva e spacciava un unguento contro la peste, uno dei tanti rimedi che allora circolavano per combattere il morbo. Il Piazza, pochi giorni prima di essere arrestato, aveva chiesto di quell'unguento al Piazza, che dica conforme davanti anche al notaro se sa chi è il fabbricatore degli unguenti. A me l'ha dato lui l'unguento, il barbiero. Che nomini, detto barbiero? Credo che abbia nome Giovanni Giacomo, la cui parentela non so. Se da detto barbiero ne ha avuto o poco o assai di detto onto. Come potrebbe star lì quel vasetto lì che è sopra la tavola, vostra signoria? Se detto barbiero è amico di lui, è imputato. Amico. È amico, sì, amico, buondì, buon anno, è amico, sì. Per la qual causa gli desse tale onto? Non lo so, immagino bene che fosse velenato. perché mi disse di andare a ungere i muri lì e dietro. E per qual causa gli disse di andare a ungere le muraglie? Non lo so, mi immagino bene che fosse avvelenato, perché il mattino dopo mi diede un'acqua da bevere dicendomi che mi sarei preservato dal veleno di tale onto. E per la qual causa non l'ha potuto dire le altre volte? Non lo so, non lo so, se non per quell'acqua che mi diede da bere. Perché vede bene, Vossignoria, che per quanti tormenti io abbia avuto, io non ho potuto dire niente. E se fossi stato anche 100 anni sopra la corda, io non avrei potuto dire niente, cosa alcuna, perché non potevo parlare. Perché quando mi veniva domandato qualche cosa di questo particolare, mi fuggiva dal cuore e non potevo rispondere, non potevo rispondere, non potevo. L'auditore corse con la spirraglia alla casa del Mora e lo trovarono in bottega. Ecco un altro reo che non pensava né a fuggire né a nascondersi, benché il suo complice fosse in carcere già da 4 giorni. Oh, Vossignoria, veda, so che è venuto per quell'unguento. Ecco, l'ho preparato là in quel vasettino sulla tavola. È per il commissario Piazza, ma giusto a Dio, mica è venuto a pigliarselo. Lo trovano in bottega con un suo figliuolo e l'auditore dà ordine di arrestare tutti e due davanti agli occhi della moglie e delle 3 figlie piccole. Ma che cosa fate? Io non ho fatto mica niente. Giustizia divina, potete fare a meno di tenermi legato. Credeva l'infelice che la sua colpa fosse di avere composto e spacciato quell'unguento senza licenza. Infatti fra le sue carte trovano una ricetta e lui, preso dal panico, la fa in 1000 pezzi. Quei pezzi furono raccolti subito. Frugan per tutto. Stanno cercando il corpo del reato. In uno stanzino si vide 2 vasa stercore umano plena. Le merda. In un cortiletto si vide un fornello con dentro una caldera di rame, sul fondo della quale stava una materia viscosa gialla e bianca, la quale, gettata contro il muro, si attaccava. L'esmoglio. Ranno. Acqua di bucato. Acqua di bucato, che allora si faceva con acqua e cenere messe a bollore. Quale veleno potente e misterioso, tanto è vero che i soldati la toccano senza problema. Menano via tutta la gente di casa, via via, sgomberare, sgomberare, tornano a interrogare il barbiere su quel ranno. Ma Vossignoria, l'hanno fatto far le donne, io non ne so niente. E allora interroghiamo la moglie del barbiere, no? Vossignoria giustissima, le è arrivato il momento e fa un po' di ceressa. Quella roba lì che l'aveva sul fondo della caldera, la quel che la resta della bugada. Avevano fatto il bucato 10 o 12 giorni avanti. Ecco, e qui dal barber han fa anche al dottor. E ne arriva di te ciculun, trasgnac, spettate, sprinde las, bisegante, segà. In una bottega di barbiere si saranno lavati dei lini sporchi dalle piaghe e dai cerotti. E noi altre donne lava, le natural che la resta quella roba salda e vuncia come il petun. Qualcosa più naturale che il trovarsi un sedimento viscido e giallo dopo vari giorni d'estate. Esatto. E appunto calcoli un po' che se anche d'estate il mese fa cald. La fanno esaminare da degli esperti, 2 medici e 3 lavandaie. Erranno. No, non erranno. Erranno. No, non erranno. Il capitano di giustizia dice che secondo i periti le misture sono molto sospette. Fanno pure un esperimento sopra dei cani per accertarsi se tali pestilenziali o no. E alla fine tornano a interrogare il Piazza. Se non dirà la verità come promessa, non gli si serbarà l'impunità promessa. La salvezza ottenuta inventandosi un nome ad alcune circostanze improvvisamente sfugge. Che fare? Panico. Lo sventurato cerca di supplire alle mancanze delle prove col numero delle vittime. Oh, non so che da dire! E nomina come gente amica del Mora e pochi di buono tale... Baruello! E 2 arrotini. Gaspare e Girolamo Migliavacca! In ultimo... Padre e figlio! In ultimo, pensa il Piazza... In fondo quello che vi preme è avere delle persone da condannare. E persone io ve ne do. Sta poi a voi cavarne quello che vi bisogna. Con qualcuno vi riuscirà. V'è pur riuscito con me. L'imputato conosce i soggetti nominati dal Piazza? Io sono Gian Giacomo Morra, vostra signoria, e posso dire questo, che sì, li conosco, ma non sono amici. Sono certa gente di lasciargli fare il fatto suo. Questi sono i pezzi della scrittura trovati nella vostra bottega all'atto della visita. Li riconosce? Sì, la riconosco. Si potranno i pezzetti congregare insieme per vederne il contenuto e mi verrà ancora memoria da chi mi sia stata data. Sa chi abbia fatto l'imbrattamento di tutta la città? No. Sa da chi il Piazza abbia avuto il vaso di unguento? No. Sa che persona alcuna abbia ricercato il detto Piazza a ungere le muraglie e per così fare gli abbia dato un vasetto di unguento e un mucchio di denaro? Non so niente! Solo ora cominciava a vedere a quale strano e orribile fine potesse riuscire quel rigirio di domande. Se lei, imputato, abbia ricercato il detto Piazza a ungere le muraglie, dice, signor giudice? E per ma, così fare gli no, abbia dato una quantità di denari. Ma non è vero, ma io, no, no, mai denaro, no, in eterno farei io queste cose. E cosa dirà poi quando tale verità gli sarà dal Piazza sostenuta in faccia? E quando mi dirà questo in faccia, dirò che è un infame perché non può aver detto queste cose. E guardami Dio. E allora facciamo venire il Piazza. Signor sì, che è vero. Oh, misericordia. Non si troverà mai che siete stato a casa mia. Non proverete mai questo. Non fossi mai stato a casa vostra, come invece sono stato, che sono ridotto così per colpa vostra. Non si proverà mai che siete stato a casa mia. Il giorno appresso, 30 di giugno, fu sottoposto il Mora ad un altro giudizio. Ricorrono all'espediente degli inverosimili, il negare che faceva di avere amicizia con il Piazza e i pezzi della sua scrittura. Perché aveva fatto in pezzi la scrittura? Ma quei pezzi li avevano e se credevano che ci fosse qualche indizio di reato potevano metterli insieme e leggerla. Il Mora stesso gliel'aveva suggerito. Ma non avendo altri indizi, dichiarano che è inverosimile per ordinare la tortura. Oh, mio Dio! Non ho cognizione di colui. Dice la bugia che si appradi con casa mia. Misericordia! Mio Dio, misericordia, sono morto. È vero, ho stracciato io la scrittura credendo fosse la ricetta della mia pozione, perché volevo il guadagno io, solamente io. Lasciatemi giù che dirò la verità. La verità è che il Piazza non ha pratica alcuna con me. Oh, signoria, veda quello che vuole che dica. È vero, ho dato io al Piazza un vaso di sterco a ciò imbrattasse le muraglie. Lasciatemi giù che dirò la verità. Era sterco umano, smoiazzo. Me lo domandò lui, e di quella materia che esce dalla bocca dei morti che sono sui carri per imbrattare le mura, perché lui avrebbe guadagnato assai, perché si sarebbero ammalate persone assai ed io avrei guadagnato assai con la mia pozione. dolore produceva l'effetto che avevano tanto sospirato. Ma la confessione fatta sotto tortura non valeva se non era ratificata senza tortura e in un altro luogo di dove non potesse vedere l'orribile strumento e non nello stesso giorno. Per adempiere dunque a una tale formalità fu sottoposto il moro a nuovo esame il giorno seguente. Ma in quelle ore di riposo l'orrore del supplizio, il pensiero della moglie e dei figli, il sentimento dell'innocenza avevano forse data al povero Mora la speranza di essere più forte contro nuovi supplizi. Signor, no, che non ho cosa da aggiungervi. Vedo più presto cose da sminuire. Quell'unguento, io non ne ho mica fatto. E le cose che ho detto, le ho detto per i tormenti. Gli minacciano di rinnovargli la tortura. Vossignoria, mi lasci dire un poco un'Ave Maria e poi farò quello che il Signore mi ispirerà. Ed avendogli il dolore consumato anche col poco resto di coraggio, si dichiarò pronto a ratificare la confessione. Non voleva nemmeno che gliela leggessero. Dunque, avete causato la morte e la distruzione della gente solo per avere il suo complice, la possibilità di lavorare assai e lei di vendere il suo unguento. Questo non è verosimile. Gli avevano minacciata e data a più riprese la tortura per fargli ratificare una confessione inverosimile. Se non lo sa il Piazza, io non lo so. È stato lui l'inventore. Il Mora scarica la colpa sulle spalle del Piazza, non tanto per diminuire la sua colpa, quanto per poter giustificare cose che si era inventate solo per far cessare la tortura. A questo punto i giudici si trovano di fronte due colpevoli, ma manca un movente credibile. Vedete di cavare dall'uno e dall'altro quello che si potrà, così ragionano i giudici. In ogni modo che entrambi siano dichiarati colpevoli, ognuno secondo la sua confessione, benché siano due confessioni contrarie. La promessa di impunità e la tortura avevano prodotto due storie quella del Piazza e quella del Mora. Adesso bisognava lavorare per rifonderla in una. Venghino, signore e signori, venghino alla ruota della delazione. Alla ruota della delazione, forza signori, avanti. Fate i vostri nomi, signori, fate i vostri nomi. Avete un vicino di casa che vi tormenta? Uno molesto, magari un tunisino, chi lo sa? Un concorrente sleale che vi ruba i clienti? Che vi fotte il mercato, signore e signori! Un rivale in amore? Che vi fa cornuto e mazziato! Fate il vostro nome, forza, il suo da nome! Da questa parte, signori! Alla ruota della delazione! Fate il vostro nome, signori! Fate il vostro nome! Alla ruota della delazione! Cominciando dal Piazza! Da aggiungere lui non aveva nulla, non sapeva che ce n'avevano loro. Perché lui, accusando un innocente, non aveva pensato che si creava un accusatore. Lui infatti non aveva mai detto di aver dato bava ad appestati per comporre l'unguento. Io non gli ho dato niente! Come se quelli che gli avevano creduto la bugia dovessero credergli anche la verità. Per non aver detta la verità intera, non può godere dell'impunità. No, sì, signor, sì, è vero, il suddetto barbiere mi cercò per portargli quel detto onto e glielo portai per fabbricare quella materia. Credeva, con l'ammettere tutto, di recuperare la sua impunità, quell'impunità che intanto se ne stava fuggendo sempre più lontana. Nella furia di volerla raggiungere, cominciò ad aggiungere del suo. Disse che i denari promessigli dal barbiere Mora dovevano venire da una persona grande che gliel'aveva detto il barbiere Mora, ma non aveva potuto cavargli di bocca chi fosse quella persona grande. In realtà non aveva avuto il tempo di inventarsi un nome. Lo chiesero al Mora e probabilmente, se fosse stato messo alla tortura, il poveretto l'avrebbe inventato lui un nome. La nuova invenzione del Piazza fece sospendere il giudizio per alcuni giorni. Il Piazza pensava che probabilmente, se gli fosse riuscito di tirare dentro in quella rete così larga all'entrata e così chiusa alla fuga, un pesce grosso. Questo per sfuggirvi ci avrebbe fatto uno strappo tale che anche i pesci più piccoli ne potrebbero scappare. Tirò fuori Don Giovanni Padiglia, figlio del castellano del castello di Milano, capitano di cavalleria. Fatta subito confessare, il Piazza si andò addosso all'infelice Mora perché ratificasse il castello accusatorio. I due furono messi di nuovo a confronto e così i giudici fecero conoscere al Mora quello che desideravano dicesse. Altrimenti, come avrebbero potuto strappargli di bocca il nome di quel grande personaggio? La tortura rende sì bugiardi, ma non indovini. Disse anzi che li aveva fatti incontrare tale Don Pietro di Saragozza. Questo qui, per fortuna, era un personaggio immaginario e non si poteva torturarlo. Infatti nessuno l'aveva mai sentito nominare. Incalzato da nuove domande, il Mora aggiunse che il Piazza aveva ricevuto denari da non so chi, ma vollero saperlo i giudici. Sottoposto a nuove torture, il poveretto nominò un banchiere, il primo venuto in mente, Giulio Sanguinetti. Il Piazza, che non aveva mai detto di avere ricevuto dei denari, disse anche lui di averne ricevuti da un banchiere, ma non avendo gli giudici nominato il Sanguinetti, ne tirò fuori uno, il primo venuto in mente, tale Girolamo Turcone. E questo e quello furono esaminati, incarcerati e torturati. Danno addosso anche ai due arrotini, Emilia Vacca, padre e figlio. Cominciano dal padre. Avete ricevuto onto e denari dal barbiere Mora? No, no, che non è vero. ma se mi date gli tormenti sarò costretto a dire che sia vero, benché non lo sia. Passano poi al figlio. Vossignoria, faccia di me quello che vuole, che non dirò mai quello che non ho fatto, né condannerò l'anima mia. È molto meglio patire 3-4 ore degli tormenti che andare all'inferno a patirli eternamente. Questi tormenti finiranno presto, e nel mondo di là bisogna starci per sempre. Non si può qui fare a meno di pensare che se gli stessi sentimenti avessero dato al Piazza la stessa costanza, il povero Mora se ne starebbe tranquillo nella sua bottega con la sua famiglia. E così, chissà quanti altri innocenti. Tocca infine al Baruello, anche a lui viene promessa l'impunità. Non è che poi fate con me quello che avete fatto con il Piazza? Ma no, tranquillo, c'è l'impunità. Allora sì. È stato il barbiere. Mi ha portato all'osteria degli sei ladri. E ha alzato un telo che nascondeva un uscio. Siamo entrati in una grande sala dove che c'erano molte persone, tra cui il Padiglia e un maestro di scherma che mi ha invitato a essere uno di quelli che andavano a servizio dal Padiglia. Arrivati in Piazza del Castello, mi invitò ad andare a ungere ai suoi ordini e mi diede 25 ducatoni e un vasetto d'unguento, ma che non era perfetto, e bisognava aggiungerci sciatti e ghezzi e vino bianco e farli bollire a concio a concio, a ciò questi animali possino morire arrabbiati. Il Padiglia vuole diventare signore di Milano e a me mi ha promesso di essere uno dei primi. E poi sono arrivati maghi e incantatori e hanno fatto cerchi per terra e pronunciato parole magiche. Sator areto tenet opera rotas. Sator areto tenet opera rotas. E c'era un monaco nominato per francese che fece comparire un uomo in abito di pantalone, e questo era il diavolo. Il diavolo! L'impunità del Baruello non si poté verificare perché morì di peste. Si chiami allora a rispondere di tutte queste accuse Don Giovanni Padiglia. E qui si vede che quei giudici, se volevano, potevano interrogare senza frodi, senza menzogne, senza violenze, contentarsi di risposte ragionevoli, ammettere che l'imputato potesse dire la verità. Naturalmente, purché l'imputato fosse un signore e non un povero Cristo. Don Giovanni Padiglia chiese che si sospendesse l'esecuzione del Mora e del Piazza per andare a un confronto e potersi meglio difendere. Gli fu fatto rispondere che non doveva preoccuparsi il signor Don Giovanni, perché gente infame come erano quei due non potevano pregiudicare la reputazione del signor Don Giovanni. Il furore popolare era giunto al segno che anche difendere quelle due disgraziate vittime era considerata cosa disonorante e cattiva. Nemmeno l'avvocato d'ufficio accettò l'incarico. L'epidemia si era allargata. L'epidemia si era allargata. Ormai morivano 600. persone al giorno. Morivano 600 persone al giorno. E dove non colpiva la peste. E dove non colpiva la peste. La fame. Colpiva la fame, più della metà della popolazione. Non aveva abbastanza non da aveva mangiare. Abbastanza da mangiare. E le unzioni non erano terminate, anzi, nessuno si fidava più di nessuno. E il popolo esclamava. Il popolo esclamava, il popolo. Il popolo voleva il capro voleva espiatorio. Voleva il capro espiatorio, il popolo. Il popolo voleva il capro espiatorio. Voleva il capro espiatorio. Arriva la sentenza! Il Mora e il Piazza siano posti su un carro, portati al luogo del delitto, tanagliati con ferro rovente lungo la strada, tagliata loro la mano destra davanti alla casa del Mora, spezzate l'ossa nella ruota e in quella intrecciati vivi e alzati da terra, dopo 6 ore scannati, bruciati i cadaveri e le ceneri buttate nel fiume. Dopo una tale sentenza, quei disgraziati confermarono, anzi allargarono le loro deposizioni. La speranza di fuggire la morte, una tale morte, li fece loro ripetere le menzogne e nominare altre persone. Il Piazza strepitava che era assassinato sotto promessa e rifiutava i frati venuti per disporlo a morire cristianamente. Solo quando fu persuaso che non c'era niente da fare, si acquietò. Il primo agosto fu eseguita la sentenza. Don Giovanni Padiglia fu l'unico assolto in questo processo, sebbene più di un anno dopo. Ma si avvidero quei giudici che così facendo avevano dichiarate ingiuste tutte le loro condanne, che assolvendo il capo come innocente avevano condannato come complici degli innocenti. Tutt'altro. La sentenza rimase. I padri di famiglia ingiustamente condannati rimasero infami, i figli, resi così crudelmente e atrocemente orfani, restarono legalmente spogliati. Ai giudici parve anzi di aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che dopo aver decretato in aggiunta dei supplizi la demolizione della casa di uno di quegli sventurati, decretarono che in quello spazio dovesse innalzarsi una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame. Ma di tanto male fatto senza ragione da uomo a uomo. Non furono cause l'ignoranza dei tempi, l'arretratezza delle leggi. È vero, allora si credeva all'efficacia pestifera delle unzioni, ma questo non dava come effetto necessario il credere che Guglielmo Piazza e Giacomo Mora le avessero messe in atto. Allora si praticava la tortura, ma questo non implicava farla soffrire a tutti gli accusati. E allora, che cosa ha dominato di più il cuore di quei giudici? La rabbia contro un male oscuro, resa spietata da una lunga paura, odio puntiglio contro quegli sventurati che cercavano di sfuggirgli di mano, o il timore di voltare contro di sé le grida della moltitudine, quella moltitudine che è accecata non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti di quella stessa legge divina di cui si vantava seguace. Se in un complesso di fatti atroci crediamo di vedere l'effetto dei tempi e delle circostanze, proviamo insieme con l'orrore e la compassione uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci pare di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da ragioni indipendenti dal suo arbitrio e come legata in un sogno perverso ed affannoso da cui non ha mezzo di riscuotersi. Ma quando si scopre un'ingiustizia che poteva essere veduta da quegli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, è un sollievo pensare che se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere. E non è una scusa. È una colpa. La colonna infame di Alessandro Manzoni, regia e drammaturgia di Luca Radaelli, collaborazione alla regia di Antonio Pizzicato, con Luigi Maniglia, Luca Radaelli, Valerio Maffioletti, suoni di Luigi Maniglia, consulenza musicale di Angelo Rusconi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Simone Ferretti, uno dei curatori della 23esima edizione del Festival Resistente, in live stream dal 23 al 25 aprile 2021. Simone, ben trovato. Buona giornata a voi. Ciao. Presentiamo intanto questo festival per chi non conoscesse. Il festival da 23 anni si impegna nella promozione dei valori della resistenza della Costituzione all'interno del territorio maremmano, un festival che coniuga insieme aspetti più strettamente culturali e aspetti più ricreativi. Non a caso, insomma, veniva fatto storicamente all'interno del Castello Senese della città di Grosseto, e da lì abbiamo costruito vari momenti di approfondimento su temi collegati alla resistenza 76 anni fa, ma allo stesso tempo anche delle resistenze attuali, e quindi un momento che coniugava anche relativamente alle nuove generazioni dei momenti importanti, e ha potuto portare fino ad oggi un'esperienza che appunto arriva alla 23ª edizione con tutti i problemi che nel frattempo abbiamo incontrato. Come avete pensato questa 3 giorni online? Cerchiamo di coniugare insieme anche questa volta l'elemento più strettamente culturale con momenti di riflessione. Avremo nei primi 2 giorni, il 23 e il 24, 2 giorni di approfondimento sui temi collegati alla resistenza, da un lato anche cercando di trovare insieme all'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Grosseto dei momenti di approfondimento grazie alla presenza di alcuni autori come Greppi, di ricerca rispetto a quello che vuol dire oggi resistenza, ma quindi attualizzandola, mettendola insieme a momenti che coniugano anche alcune esperienze artistiche come quella di Mauro Piani, per poi arrivare a situazioni che parlano più del territorio, con un libro incentrato sui disertori della Wehrmacht, per poi finire la sera del 24, la prima 2 giorni, sui temi più, diciamo così, culturali, insieme a Massimo Zamboni, insieme a una scrittrice, Simona Valdanzi, cercheremo un po' di parlare di passaggi, di cultura e di barbarie. Questi sono i primi 2 giorni. Poi per organizzarsi sul 25, su un tentativo che metterà insieme da una parte momenti anche di organizzazione, tentativi di organizzazione live con un trekking che andrà a ripercorrere 2 percorsi del nostro territorio, per poi arrivare alla sera con una diretta che troverà un'intervista con Gad Lerner e poi successivamente tutta una serie di passaggi con le associazioni e soggetti che storicamente fanno parte del nostro festival. Visto che ha una lunga tradizione, qual è il rapporto della Maremma con la memoria resistente? È un rapporto importante perché comunque vada allo stesso tempo una capacità sempre di rinnovarsi. Lo vediamo con i risultati che il festival ha avuto quando potevamo, diciamo, incontrarci e assembrarci alle Gravecce durante le prime 21 edizioni. Anche l'anno scorso i risultati sono stati buoni, ci attendiamo anche questa volta, anche se l'esperienza online sicuramente ha avuto il boom perché eravamo realmente in lockdown l'altra volta, ci rendiamo conto di questo, ma pensavamo e pensiamo che sia importante comunque dare un segno anche in questo momento di lontananza rispetto a quello che potrà essere il festival solito, che cercheremo e ci auguriamo di ripetere sin dalla 24ª edizione. È un territorio che tiene in sé la memoria di alcuni fatti come l'eccidio di Maiano Lavacchio e dei martiri di Ischia, insieme pure a situazioni che indubbiamente tengono di sott'occhio, come in tutta Italia, situazioni da tenere sott'occhio come la rinascita delle nuove destre. Per cui la nostra esperienza, l'esperienza che nasce da un circolo ACI, è appunto quello di riuscire il più possibile a coinvolgere giovani e scuole all'interno di questi percorsi e allo stesso tempo di riuscire a costruire un momento di riflessione che alle volte passa anche da una festa. Sicuramente abbinare il tema della festa con una situazione dolorosa, però la liberazione è stato un momento di rinascita e sin dai giorni in cui avveniva la liberazione appunto si scendeva in piazza per festeggiare. Da nostra è stata per 22 edizioni una vera e propria festa e ci teniamo a costruire sempre momenti nuovi per tenerla alta, diciamo così. Ci dai tutti i riferimenti web? Riuscite a trovare tutto quanto sulla nostra pagina Facebook Festival Resistente ARCI. Troverete inoltre su www.festivalresistenteonline anche il sito dove andremo in streaming e dove sarà possibile seguire gli eventi del festival.

singoli originali e un po' alla futurista, rilegato con una semplice vite metallica. Poi fui coinvolto da Fabio Santin, Rino Di Michele e gli altri compagni di Venezia, vennero a San Casciano Val di Fresa a cercarmi e io aderì immediatamente, e quindi nel 2000 vide la luce il numero uno di questa, che allora era un libro d'artista. Per molti anni siamo andati avanti come libro d'artista. Quante persone coinvolge la cura di questa creatura? Questa creatura, che da qualche anno si è trasformata in rivista con un pittore acquarellista, Iaccarino, che ne è direttore e quindi è diventata in qualche modo ufficializzata, coinvolge una 20-30 persone anche fuori dall'Italia, e il gruppo più solido, diciamo una sorta di assemblea redazionale aperta, è intorno a 10, 12, 14, 15 persone variabili. Però la cosa interessante è che nei 20 anni hanno collaborato in 250. E sono nomi anche molto molto importanti, alcuni più di area anarchica e più noti all'interno, come Anarchic, quello che ha fatto il fumetto per la rivista anarchica per tantissimi anni fin dalla sua nascita, Ambrosoli, recentemente scomparso, e Paolo Finzi, al quale gli abbiamo dedicato, voglio dire, qualcosa in questo numero, visto che si è purtroppo suicidato chiudendo questa esperienza cinquantennale di arrivista l'anno scorso, insomma. Ma all'interno di questo gruppone hanno partecipato con proprie opere originali persone come Ezio Bosso, anche lui purtroppo recentemente scomparso, il musicista Vittore Paroni, Caterina Bueno, Ascanio Celestini, Echaur, Mimmo Franzinelli, Alessio Lega, Gianluca Lerici, tanto per fare un po' di nomi, Giovanna Marini, Gianni Fettena, Fernanda Pivano, Paragna, e nell'ultimo numero anche Zero Calcare ha scritto qualcosa per noi. Insomma, è un gruppo piuttosto vasto, ecco, di artisti di varia natura, con ideali riferentesi in senso lato e ampio alla cultura libertaria. Ecco. Che tipo di cadenza ha? Riusciamo a farne solo due numeri l'anno, perché è un lavoro complesso, tanto per dirti, la copertina di questo numero è 31 cm per 99, quindi ha una copertina di 31-31, che è la dimensione dell'home plane, e quindi a questo ci rifacevamo con questo numero quasi cabalistico che ci accompagna fin dall'inizio ed ha le stesse dimensioni dell'home plane. C'ha due risvolti di copertina, per cui diventano 99 cm in tutto. Ed è carta speciale, diversa secondo il tipo di articolo e di lavoro, e poi rilegata a mano in 400 esemplari numerati. Come è strutturato un numero? Il numero ha un colophon dove noi, come descriviamo, il gruppo originario che lo fondò ormai 20 anni fa, ma che più che essere dei direttori sono degli ideatori, degli iniziatori. Dopodiché c'è una sorta di articolo di fondo, di redazionale, che illustra più o meno il lavoro di questo numero, un allegato sempre costante che è un CD di musica originale fatta solo per noi, quindi gli artisti lo donano perché si presta opera per a parte, ovviamente è tutta gratuita. Dopodiché ci sono all'interno quasi sempre degli allegati, in questo numero addirittura ce ne sono due, e c'è anche una scatola da ritagliare, una sorta di oggetto, che riassume all'interno di questo cubo, che è una miniatura della dimensione 31-31, tutti i DVD, CD pubblicati nei 20 anni, le biennali di anarchia, gli incontri fatti in ambito locale o nazionale e qualcosa anche all'estero. Ed è bella, oltre che importante nei contenuti, ma è anche molto molto molto bella, per cui chi la vede, chi la tocca, chi l'apre, chi se la gira tra le mani, insomma, la prende, ecco, per farla breve, perché si vede da sola, insomma, ecco. Non abbiamo rese, resti sono pochi pochi, di qualche numero neanche uno, perché è oggettivamente bella, ci siamo molto affezionati, sì. A partire da questa cadenza del ventennale, è un rapporto vivace quello dell'arte con il pensiero e la pratica libertaria. Sì, lo è, ripeto, specialmente dall'espressionismo in poi, ma ci sono stati forti elementi che attraversano tutto il Novecento, le cosiddette avanguardie, il primo futurismo di cui sai che io sono una sorta di fissazione, sono 35 anni, all'inizio da solo, con pochissimi altri, tipo la Claudia Salaris, Giovanni Vista e pochi altri, e poi insomma un pochino si è allargato il giro, ma insomma l'oggetto d'arte, l'elemento che si fa promotore di un'idea e diventa un oggetto, diventa un momento, diventa un manifesto esso stesso. Questa è una passione, uscire dalla tipografia e entrare nella piazza, nella strada, tra le braccia delle persone, è un modo di veicolare anche un ideale, una cultura, un atteggiamento, un modo di essere. Poi, senza parlare del surrealismo, il dadaismo, i movimenti che hanno attraversato tutto il 68, gli happening, ciò che accade nei centri sociali, come ben sai, e quindi insomma ecco, l'arte è un modo, secondo noi, importante di raccontarsi e di raccontare parte, brandelli di anarchia e di un modo di pensare libero e anti-autoritario. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? www.aparterivista.it, non due film ma una sola, ma comunque chiedendo A Parte si trova in ogni caso. E poi c'è anche aparte@virgilio.it come indirizzo mail e aparte.online su Facebook. Se no, attraverso il Centro Studi Storici della Val di Pesa, www.cssvp.com, lì trovare me e attraverso me eventualmente la rivista, insomma, ecco. Il numero speciale per il ventennale della rivista A Parte, materiali regolari di cultura libertaria, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alberto Ciampi. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, grazie moltissimo Federico, a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.